Bene, questa era la gradevole voce di Amalia Barahona. Amalia Barahona che ha realizzato per la 4 Records questo CD intitolato Tre Mundus, dal quale noi ci siamo ascoltati a Vizigna Dolado. In questo pezzo Amalia Barahona era accompagnata da Tony Kitanowski e Dinko Stipanichev, che hanno suonato chitarra e clarinetto. Il CD è veramente molto gradevole, con delle interpretazioni sempre di grande classe, sicuramente una bella sensibilità quella di Amalia Barahona, che si accompagna a una ottima preparazione tecnica e una partecipazione interiore che si evidenzia in ogni pezzo. Lasciamo Amalia Barahona e continuiamo, cambiando linguaggi, con Brian Landrus con il suo trio. Stasera noi dal suo ultimo CD The Deep Below ci potremo ascoltare Fly. Buon ascolto quindi con il Brian Landrus Trio. I'm Questo era il Brian Landers Trio dal CD The Deep Below, pubblicato dalla Palmetto Records. Noi ci siamo ascoltati una composizione originale di Landers e Plaxico intitolata Fly. Ricordo che il trio è formato da Brian Landers al sax baritono, Lonnie Plaxico al basso e Billy Hart alla batteria. Un trio, come avete sentito, in piena chiave mainstream, ma con delle tensioni contemporanee. Una vena di malinconia nelle energie compositive di Brian Landers attraverso questo pezzo Fly, che ci ha accompagnato con morbidezza ma anche con qualche tensione, appunto, dai toni malinconici. Dopo Brian Landers e il suo trio andiamo avanti con un pianista italiano che si chiama Armando Calabrese. Armando Calabrese per la 12 Lune Records ha realizzato un CD in piano solo intitolato Why Not. Stasera noi da questo bel CD ci ascolteremo un'interpretazione molto particolare, molto interessante di Bouncing with Bud, scritta da Bud Powell. Buon ascolto con Armando Calabrese. Bene, questo era il pianismo di Armando Calabrese, un pianista che per la 12 Lune Records ha realizzato questo CD in piano solo intitolato Why Not, dal quale noi ci siamo ascoltati Bouncing with Bud, un'interpretazione molto vivace, pimpante, pulsante, che mette in evidenza anche le capacità tecniche di Armando Calabrese, ma non solo, anche la sua sensibilità interpretativa, veramente un valido pianista. Dopo Armando Calabrese con il suo CD Why Not, è il momento di ascoltarci un grande a livello internazionale. Io lo ricordo sempre quando arrivò in Italia con Miles Davis, sto parlando del grande chitarrista John Scofield. John Scofield, che per la Impulse ha realizzato un CD intitolato Past Present, dal quale noi ci potremo ascoltare proprio questa sua composizione che dà il titolo al CD, Past Present. Il gruppo è formato da John Scofield alla chitarra, Joe Lovano, il grandissimo Joe Lovano al sax tenore, l'altrettanto grande Larry Grenadier al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria. Buon ascolto con John Scofield Quartet. Thank you. E beh, grandissimi musicisti, straordinari interpreti del jazz contemporaneo. John Scofield, Past Present, questo è il suo CD uscito da poco, pubblicato dalla Impulse. Past Present è anche il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati, una composizione originale che John Scofield ha condiviso con questi straordinari compagni d'avventura, il grande sassofonista Joe Lovano, il grande batterista Bill Stewart e lo straordinario contrabbassista Larry Grenadier, una sezione ritmica che ha accompagnato con grande forza e con grande tensioni il gioco di assoli che John Scofield e Joe Lovano hanno condiviso con una freschezza e con una tensione veramente coinvolgenti, veramente due grandi performer che hanno reso così vivace e pulsante l'interpretazione di questa composizione originale di John Scofield al massimo livello del jazz di questi tempi. Veramente molto bello questo pezzo. Andiamo avanti adesso con Joseph Hade. Joseph Hade è un chitarrista che ha realizzato da poco un CD intitolato Dreams Come True. Il CD è stato realizzato insieme a Andreas Unzinger alle tastiere e alla voce, gli arrangiamenti, e poi insieme a loro Stefan Schraff alla chitarra, Tommy Marti sempre alla chitarra, poi abbiamo Urs Nüsli al basso, Mario Kaspar alla batteria, Beat Riggenbach al sax e Sara Utzinger ai cori. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una composizione originale intitolata Some Hope. Buon ascolto con il gruppo di Joseph Hade. Got some rough road. No need to be so sad, girl. Believe me, there is hope. What you need is some reflection about you and about your life. You want, girl, and I tell you now it's time. Let me give you some hope, girl, that's what I wanna do. Let me give you some hope, girl, the one responsible is you. Let me give you some hope, girl, the one who has the key is you. Some hope, girl, and I'll be there for you. Oh. No one's gonna take this off of you. Start is to get to know you with all your fears and all your ills, especially what makes you happy, what makes you really thrill. It can't be done with pills. some hope, girl. The one who has the key is you. Let me give you some hope, girl, and I'll be there for you. Oh. Questa era la voce del chitarrista e cantante Joseph Haydn dal CD Dreams Come True, e noi ci siamo ascoltati questa sua composizione intitolata Some Hope. Ricordo che la musica di Joseph Haydn è stata vissuta con molte partecipazioni, quindi Joseph Haydn alla voce, Andreas Utzinger ai cori, alle tastiere, agli arrangiamenti, Stefan Schraff alle chitarre, Tommy Marti alle chitarre, Urs Nüsli al basso, Mario Kaspar alla batteria, Beat Riggenbach al sax e Sara Utzinger ai cori. Il CD è molto gradevole, con questa musica che spazia dallo smooth jazz al soul, con venature pop e jazz che avvolgono le interpretazioni di questo cantante chitarrista Joseph Haydn. Il prossimo ascolto sarà dedicato a un gruppo che si presenta per la prima volta in Anima Jazz, si chiamano Lerex e per la Cuneiform Records hanno realizzato un CD intitolato Wild Man, e il gruppo è formato da Benedict Racing al sax alto, Mark Stucky al sax tenore e poi abbiamo Andreas Chop al trombone, Mark Unternahrer alla tuba e Rico Baumann alla batteria. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Riff Raff ed è una composizione del sassofonista Mark Stucky, quindi buon ascolto con il gruppo di Lerex. Thank you. Bene, questi erano i suoni del gruppo Lerex. Il pezzo era intitolato Riff Raff, una composizione di Mark Stucky e tratta dal CD Wild Man pubblicato dalla Cuneiform Records. Il gruppo è formato da Benedict Rising al sax alto, Mark Stucky al sax tenore, Andreas Schopp al trombone, Mark Unterhaler al tuba e Rico Baumann alla batteria. Un gruppo, come avete sentito, sanguigno, che ha vissuto questo pezzo live con grande tensioni, con una bella dinamica e sicuramente con un piglio deciso e sensuale. Dopo l'Erex, dal loro CD Wild Man, è il momento di un altro gruppo che si chiama Velocity e che ha da poco realizzato un CD intitolato Displacement Over Time. Da questo CD noi ci potremo ascoltare il pezzo che dà il titolo all'album, appunto Velocity. Andiamo a vedere la formazione: Peter Adams alle tastiere, Brian Smith alla batteria, Rob Hutchinson al basso e Cliff Colon al sax. Buon ascolto quindi con il gruppo di Velocity. We'll be right back. Bene, questo qui era la musica di Velocity, questo gruppo formato da Peter Adams alle tastiere, Brian Smith alla batteria, Rob Hutchinson al basso e Cliff Colon al sax. Il CD è intitolato Displacement Over Time. Il pezzo che ci siamo ascoltati porta il nome del gruppo Velocity ed è una loro composizione originale. Si tratta di musica che a volte profuma un po' di jazz rock. Il gruppo è ben affiatato, questo è il loro primo CD e sicuramente fanno ben sperare, una formazione interessante con delle belle individualità e con una bella grinta. Bene, lasciamo il gruppo di Velocity e torniamo in Italia. Ci torniamo per ascoltare il Marco Bianchi Lemon Quartet, un gruppo veramente interessante che ha da poco realizzato un CD intitolato Pixel e da questo CD noi potremo ascoltarci Red Hot Chili Peppers, una composizione originale dello stesso leader del gruppo Marco Bianchi. Andiamo a vedere la formazione: Marco Bianchi al vibrafono, Nicola Tacchi alla chitarra, Roberto Piccolo al contrabbasso e Filippo Valnegri alla batteria. Buon ascolto quindi con il Marco Bianchi Lemon Quartet. Thank you. Questa era la musica grintosa del Marco Bianchi Lemon Quartet dal CD Pixel. Noi ci siamo ascoltati Red Hot Chili Boppers, una composizione di Marco Bianchi che avete sentito interpretata con grande forza espressiva, grande carica, grande grinta, come dicevo prima. Nicola Tacchi alla chitarra ha fatto degli assoli veramente molto roccheggianti, e quindi un pezzo che ci ricorda quanto il rock sia entrato dagli anni, dalla fine degli anni 60, in special modo con Miles Davis, ma non solo con lui, sia entrato anche in dialogo con il jazz, formando appunto il jazz rock, ma vivendo appunto con il jazz un ideale connubio che molto energeticamente ha rivitalizzato in molti casi il jazz, portando una ventata di particolarità. Il gruppo è formato da Marco Bianchi al vibrafono, Nicola Tacchi alla chitarra, Roberto Piccolo al contrabbasso e Filippo Valnegri alla batteria. Un ottimo gruppo. Il CD non è tutto su questi toni, io ho scelto questo perché in questo caso mi ha emozionato, mi piace, così come mi piace appunto lo storico jazz rock, ma ci sono anche pezzi più delicati, più calmi, e sicuramente un CD da gustare pienamente dal primo all'ultimo pezzo, e le performance personali sempre di alta qualità mantengono l'ascolto sempre attento dal primo all'ultimo pezzo. Marco Bianchi, Lemon Quartet. Ecco, adesso è il momento di ascoltare un gruppo che non solo si presenta per la prima volta in Anima Jazz, ma che ha pubblicato il suo primo disco. Il leader è un bassista, il suo nome è Dominic Lash, e in quartet per la Babel Label ha realizzato un CD intitolato Opabinia. Dominic Lash è al basso, come vi ho detto, Alexander Hawkins al pianoforte, Javier Carmona alla batteria e Riccardo Tejero al sax. Il pezzo che ci potremo ascoltare stasera è intitolato Hold the Buster Man. Buon ascolto quindi con Dominic Lash Quartet. Thank you. ci siamo ascoltati il Dominic Lash Quartet. Il CD è intitolato Opa Binia, pubblicato dalla Babel Label, e il gruppo è formato da Dominic Lash al basso, Alexander Hawkins al pianoforte, Javier Carmona alla batteria, Riccardo Tegero ai sax. Il pezzo che ci siamo ascoltati stasera è intitolato Halt the Busterman ed è una composizione originale di Dominic Lash. Una musica, come avete sentito, profuma di contemporaneo, molto asciutta, molto rigorosa nella sua semplicità, nella sua linearità. E siamo arrivati alla fine della trasmissione. L'ultimo pezzo ce lo regalerà il cantante, non solo, Duccio Castelli. Duccio Castelli che ha realizzato un CD intitolato I Sing My Memories e l'ha fatto insieme a Sandro Di Pisa alla chitarra e Alfredo Ferrario al clarinetto. Stasera ci offrirà una sua interpretazione molto asciutta di Summertime, scritta da Gershwin. Buon ascolto quindi con Duccio Castelli. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mommy's good looking. Hush, baby boy, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't nothing can harm you. With daddy and mommy standing by. Are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little boy, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you'll stretch your wings, and you'll take to the sky. But till that morning, nothing can harm you. With daddy and mommy are standing by. Bene, abbiamo concluso la nostra trasmissione con questo omaggio alla grande tradizione che ci ha voluto offrire Duccio Castelli con questa sua interpretazione di Summertime, vissuta insieme a Sandro Di Pisa alla chitarra e Alfredo Ferrario al clarinetto, tratto dal CD I Sing My Memories, che conclude questa puntata numero 684 di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.